chiesa corre veloce verso il trono del Salvatore. Come bello, dolce Signore, stare insieme nel vero amore, tutti uniti in un sol cuore, stretti, stretti al Salvatore. Solo in figura, ma domani in pieno splendor, la tua chiesa corre veloce verso il trono del Salvatore. Come bello, dolce Signore, contemplare la tua bontà, che tu mostri nel rinnovare questa povera umanità, che tu mostri nel rinnovare questa povera umanità. Per adesso solo in figura, ma domani in pieno splendore, la tua chiesa corre veloce verso il trono del Salvatore. Ecco, prima di iniziare ancora a parlarvi del curato d'Ars, vi racconto un fatterello, così un po' ridicolo, per elevare un po' gli spiriti. Sono stato ieri a visitare una coppia di giovani sposi. Il marito, 97 anni, la moglie, 93 anni. Si sono conosciuti nel 1914. E sposati nel 1920, quindi hanno già 68 anni di matrimonio. E quando sono entrato mi hanno accolto con molto calore, perché già da molto tempo non entrava il sacerdote nella loro casa, e la signora si è subito seduta scusandosi che non aveva più quell'agilità nel camminare e aveva bisogno di stare seduta. Poi hanno fatto sedere anche me, perché ero un sacerdote, quindi era giusto che mi sedessi. Invece lo sposo, che dovete sapere è un generale, è rimasto per tutto il tempo in piedi, praticamente sull'attenti accanto a me, conversando con un brio, con una prontezza nella battuta, con uno spirito umoristico davvero incredibile e con un aspetto molto molto giovanile, 97 anni. La cosa mi ha molto colpito, e sapeste con quale desiderio, direi con quale trasporto, hanno ricevuto Gesù nell'Eucaristia, che già da molto tempo non ricevevano. Quindi è un episodio che mi ha molto rincuorato, vedere persone così anziane ancora così piene di energia e di vigore, e auguro a tutte le persone anziane davvero che abbiano questa forza interiore per poter superare tutte le prove, per sentirsi sempre giovani come questo giovane generale di 97 anni. Adesso allora parliamo ancora del curato d'Ars. Ecco, dovete sapere che il curato d'Ars era un po' uno spirito come questo generale, cioè una persona di grande energia. La sua natura era questa, energica, intraprendente. Aveva proprio l'istinto del generale, l'istinto della conquista, la conquista delle anime. E il suo sogno era sempre stato di avere una vita molto attiva e molto utile al prossimo. Ed ecco che ora gli è stato affidato un minuscolo campo di lavoro. Però lui non è che se la prenda troppo, anzi, si impegna a fondo. Avrebbe potuto vivere in pace, perché in fondo aveva poche anime da curare. Invece si è voluto impegnare a fondo e ha voluto avere fin dall'inizio delle giornate pienissime e fecondissime. Ed ecco la prima cosa che fa il curato d'Ars per convertire la sua gente: la prima cosa è la preghiera. Il mattino, molto prima dell'alba, lo si poteva vedere uscire con la sua lanterna dalla casa, attraversare il cimitero ed entrare in chiesa, diciamo al suo posto, come un buon soldato di Cristo, no? Che si reca al suo posto di intercessione. E in chiesa non è che rimanesse silenzioso, in chiesa chi l'avesse visto si sarebbe commosso, perché lui si prostrava a terra, lui pregava ad alta voce il Signore di aver pietà del gregge e del pastore, e diceva: mio Dio, concedetemi la conversione della mia parrocchia. Accetto di patire tutto ciò che volete per tutto il tempo della mia vita, sì, o Signore, anche per 100 anni, tutti i dolori più acuti, purché si convertano. E questa preghiera era anche unita alle lacrime che bagnavano abbondantemente il pavimento, e quando sorgeva il sole il santo curato era ancora là a pregare per il suo popolo, e tante volte rimaneva anche tutta la mattinata, e qualche rara volta anche tutto il giorno intero lo passava in orazione davanti al Santissimo Sacramento per la sua parrocchia, per il suo gregge. Come passava ordinariamente il pomeriggio il curato d'Ars, almeno i primi anni, perché poi sappiamo che non avrà né mattina né pomeriggio, la sua vita sarà tutta una crocifissione in quel confessionale. I primi anni passava i pomeriggi piuttosto in un modo, diciamo, contemplativo. Dopo la famosa visita alle famiglie, che lo teneva impegnato da mezzogiorno fino alla fine del pranzo, visitava ogni giorno una o due famiglie, ecco che il curato d'Ars si inoltrava per la campagna, sempre pregando, però questo era il momento contemplativo, ed era bene che ne godesse di questi momenti di pace, perché si avvicinava quel tempo famoso in cui non avrebbe più conosciuto neanche un'ora di calma, in cui sarebbe vissuto come un sepolto vivo, senza aria e senza sole. E il curato d'Ars durante questi pomeriggi contemplativi anche qui pregava spesso in ginocchio piangendo, recitava l'ufficio divino, la liturgia delle ore, il santo rosario, e qualche volta qualche contadino lo vedeva, lui pensava di non essere visto, ma lo vedeva in questi atteggiamenti di grande confidenza verso il Signore. Però adesso, carissimi, passiamo subito alle penitenze del curato d'Ars. Il curato d'Ars era convinto che per convertire una parrocchia le prime armi sono queste da usare: preghiera e penitenza. E prendeva alla lettera quello che dice Gesù nel Vangelo, che certa specie di demoni non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno. Ed ecco allora la prima cosa che fa il curato d'Ars arrivando in paese, è quella di eliminare il materasso per dormire. Dice: il materasso non è necessario, lo regalo a un povero, io posso dormire anche senza materasso. E si stendeva per poche ore per notte in una stanza a pian terreno, che non era la sua camera da letto, su dei sacchi, e in una stanza piuttosto umida, per cui in breve tempo contrasse una grave forma di nevralgia facciale, di cui avrebbe dovuto poi soffrire per 15 anni. Allora, vedendo che le cose si mettevano male, il curato d'Ars cosa fa? Non va in camera, ma sceglie di andare a dormire sul solaio, e dorme sul nudo tavolato e appoggia la testa su una trave. Deve essere stata davvero una posizione molto scomoda. Però questo non gli basta, e siamo solo al dormire, alla penitenza sul dormire, questo non gli basta. Il curato d'Ars ha anche un'altra abitudine, diremmo noi pessima, ma lui la riteneva tanto preziosa per convertire le anime. Cioè, ogni sera, prima di andare a letto, si fa per dire, lui per un bel po' di minuti, talvolta anche fino a un'ora, si flagellava, usava la famosa disciplina, questa frusta con punte di ferro, e si flagellava. Dice che questo strumento di penitenza lui stesso l'aveva costruito, e lui stesso lo riparava di quando in quando, quando vedeva che, insomma, veniva messo fuori uso. E spesso la mattina nella sua stanza venivano trovati delle catenelle, delle piccole chiavi, dei pezzi di ferro, di piombo, che si erano staccati da questa disciplina. Si racconta che una sera una signora che era venuta presso la vedova Renard, che abitava lì a due passi dalla canonica, udì questi colpi che si dava il santo curato e rabbrividì nell'immaginare la scena, e continuava a dire alla sua ospite, dice: ma quando finirà? Quando finirà? e lei stessa gemeva piena di compassione. Però per il curato d'Ars questo era molto importante, e spesso le persone che gli tenevano in ordine la biancheria trovavano sulla camicia la spalla sinistra tutta sdrucita e macchiata di sangue. Adesso passiamo a un altro argomento, sempre austero. Questo è il curato d'Ars, un uomo austero, un uomo che è stato molto severo con sé e con gli altri, ma ha ottenuto dei risultati sorprendenti. Adesso vediamo un po' invece le penitenze per quanto riguarda il cibo. Dovete sapere che un mese dopo il suo arrivo ad Ars inizia la Quaresima. Per cui il Santo Curato prende una decisione eroica, dice: d'ora in poi nella mia vita, fin quando avrò questo incarico pastorale, farò stretto digiuno. Stretto digiuno vuol dire mangiare soltanto una volta al giorno, un pasto neanche grande, e evitare completamente gli altri pasti. Noi diciamo che il digiuno in senso lato è un pasto al giorno, però si possono fare due piccoli pasti. Invece lui lo prendeva proprio rigorosamente. E questo, diciamo, questo programma lo manterrà fino al termine della sua vita. Sappiamo che aveva ben presto congedato la domestica, diciamo la perpetua, cioè quella buona vedova che l'aveva accompagnato fino a lì, dal paese dove era prima. E per cui adesso è da solo ed è un po' troppo libero di fare le sue penitenze. E lui stesso dirà più avanti negli anni che furono questi i suoi peccati di gioventù, le sue follie di gioventù. Cioè, specialmente nel primo anno, passò ogni misura nelle penitenze. E una volta aveva detto, una volta dirà, quando si è giovani, dirà un sacerdote, si commettono molte imprudenze. Fatto sta che il Santo Curato d'Ars cosa faceva per il vitto? Anzitutto dobbiamo dire che non aveva mai una regolarità in questo pasto, questo unico pasto che faceva ogni giorno. Ma lui era abituato a far bollire delle patate una volta alla settimana, e queste patate le depositava in una specie di paniere di ferro che appendeva al muro. E quando la sentiva i morsi della fame, allora prendeva una o due patate. La terza, secondo lui, sarebbe stata per il piacere. E le mangiava così fredde. Anche quando la provvista stava per finire, e cioè quando queste patate erano già tutte coperte di muffa. Si racconta che una volta andò a trovarlo sua sorella Margherita, insieme a quella buona vedova che lo accudiva nel paese dove era prima, e lui le ha accolte cordialmente, però gli ha subito detto: guardate che io non ho niente da mettervi sotto i denti. Per fortuna queste due donne erano state prudenti e avevano portato con sé un po' di pane. Lui ha detto: se volete io ho le famose patate. E loro hanno visto che erano ammuffite. Lui dice: ma no, guardate che sono ancora buonissime, guardate, fate come faccio io. E le mangiò in loro presenza. Nel frattempo queste due donne preparano al curato d'Ars qualcosa che valga la pena di mangiare, però lui se ne mostra piuttosto contrariato e non assaggia quasi nulla. Quindi questo periodo della sua vita fu un periodo molto molto austero, e lui stesso in seguito dirà che forse ha anche un po' esagerato. Dice: allora ero quasi solo, abbandonato a me stesso, e ne ho approfittato. In questo fervore di penitenza gli capitò di lasciar passare anche due o tre giorni senza mangiare nulla, e durante la settimana santa di quell'anno mangiò in tutto due volte. Allora la vedova che abitava vicino a lui, la vedova Renard, pensò di fare buona cosa nell'aiutare il curato d'Ars, portandogli qualche volta del buon pane fresco. Il curato d'Ars la accettava molto molto volentieri, però gatta cicova, cosa ne faceva di questo buon pane fresco? Pensate, lo dava ai poveri in cambio del pane secco che loro portavano addosso, e tante volte questo pane secco non soltanto lo prendeva in cambio, ma addirittura lo pagava. E questa signora ha avuto un bel da fare nel portargli tanti manicaretti, ma regolarmente veniva delusa perché lui la metteva alla porta, anzi la porta non l'apriva neppure, e questa signora se ne tornava a casa col piatto pieno, piena di lacrime, e piena di delusione, e diceva: non ho bisogno di niente, non voglio nulla, tornate fra diversi giorni. Ecco, e così la congedava, e purtroppo le cose andavano avanti così. Ecco, poi vediamo adesso un'altra cosa. Quando era domenica, il curato d'Ars faceva un'astinenza ancora più forte. Dice che a mezzogiorno si accontentava di 3 o 4 grammi di pane benedetto, proprio giusto per, insomma, per calmare un attimo quei morsi della fame che si facevano troppo sentire. Soltanto la sera prendeva soltanto un cibo un po' più abbondante, ma sempre con molta, molta sobrietà. E un giorno, siccome la fame si fece sentire particolarmente, e andò a vedere, non aveva proprio niente in casa, allora passò da un vicino, il quale rimase sbalordito nel vederlo così sfigurato. Cosa avete, signor curato? Guardate, amico mio, non mangio da 3 giorni. E allora quel buon parrocchiano gli dà un po' di pane. Un'altra volta, andando in casa di una persona, all'ora di pranzo, come era solito fare, vide sulla tavola delle patate fumanti, e lui era molto, molto assediato dalla fame. Ha detto: che belle, ne ha presa una in mano e poi l'ha rimessa nel piatto. Ecco, questa penitenza è una delle sue penitenze preferite: andare nelle case, trovare una tavola imbandita, vedere tutto e non prendere niente. Ebbene, il curato d'Ars dice che proprio grazie a questo metodo fece molte, molte conquiste nel campo spirituale. Anzitutto, le persone hanno imparato a rispettarlo, ad ammirarlo, perché si vedeva benissimo che era un uomo che si imponeva delle grandi penitenze. E lui stesso dice che le anime davvero si convertivano. Così disse a un sacerdote molti anni dopo, dice: amico mio, il demonio fa poco conto della disciplina e degli altri strumenti di penitenza. Ciò che lo sbaraglia è la privazione nel bere, nel mangiare, nel dormire. Niente il demonio tiene di più, e quindi nulla è più gradito a Dio. Quando ero solo, e lo sono stato per 8-9 anni, potendo fare un poco mio piacimento, mi è capitato di non mangiare per diversi giorni. Allora ottenevo da Dio tutto ciò che volevo per me e per gli altri. E si lamenterà del fatto che dice: ora non è più la stessa cosa, non posso stare a lungo senza mangiare, non riesco più a parlare se non mangio. Comperavo dai poveri i pezzi di pane che erano stati loro offerti, passavo una buona parte della notte in chiesa, non avevo tanta gente da confessare come ora, e il buon Dio mi faceva grazie straordinarie. Quindi questo tempo è stato il tempo delle grandi penitenze, ma anche il tempo delle grandi consolazioni. Ecco, adesso ascoltiamo ancora una canzone alla Madonna, una canzone o santissima o pissima, poi parleremo di un altro argomento. Ed ecco, cari ascoltatori di Radio Maria, che il curato d'Ars ora persegue un programma molto importante. La preghiera e la penitenza doveva servire a scuotere le anime dei suoi parrocchiani e ad avvicinarle al Signore, però il curato d'Ars è ben consapevole che deve compiere anche un'altra opera molto importante, cioè scuotere l'indifferenza della gente con una opportuna istruzione religiosa, cioè la guerra all'ignoranza religiosa. E il curato d'Ars, in proposito, aveva una convinzione molto importante, che il non essere istruiti nella propria religione è un peccato. Quindi sentiva suo preciso dovere questo compito di catechista, catechista dei fanciulli, catechista degli adulti. E vedremo che questa cosa lo impegnerà moltissimo, sempre per quella benedetta suo difetto che era poco forte nella memoria e non aveva un cervello molto svelto, ma vedremo che otterrà dei risultati strepitosi. Comunque la prima cosa che fa per attirare la sua gente è quella di abbellire la chiesa. Lo vedremo meglio in seguito. Comunque sembra che questa chiesa fosse molto, molto malmessa. Era piccola, non solo era piccola, ma era tutta malandata di dentro e di fuori, e si dice che quando qualche sacerdote passava di lì e celebrava la messa ne rimaneva molto scandalizzato. Allora appena arriva il santo curato dice: qui questa chiesa va rimessa a nuovo, e la sua prima preoccupazione è quella di rifare l'altare, di mettere un nuovo altare, il più bello che sia possibile, il più degno che sia possibile della gloria del Signore. E questa volta non chiede soldi a nessuno, ma da fondo a tutti i soldi che gli rimangono in tasca per comprare questo nuovo altare, per farlo collocare. E poi lui stesso provvede tutto quello che ci vuole per abbellire l'altare. Poi rifà anche il guardaroba della sacrestia. C'erano dei paramenti molto malmessi, molto vecchi, indecorosi. Ecco, il curato d'Ars elimina tutto e rinnova il guardaroba. E si dice che questo pretino, così malmesso lui stesso, quando va a Lione, nei negozi dove vendono queste cose, lui chiede sempre le cose più belle. E i negozianti ormai hanno imparato a conoscerlo e dicono: nei dintorni c'è un piccolo curato, magro, malmesso, che ha l'aria di non averne neanche uno in tasca, e che per la sua chiesa vuol sempre ciò che c'è di meglio. Spesso veniva accompagnata dalla contessina di Ars, che doveva aiutarlo economicamente, e lei stessa dice che non era mai contento. Gli presentavano degli arredi, dei paramenti, e lui dice: no, non è abbastanza bello, fatene vedere uno più bello. Comunque adesso parliamo dell'istruzione religiosa ai fanciulli. Il grande male di quella povera gente era l'ignoranza, e quindi l'indifferenza in materia religiosa. Non era gente incredula, perché avevano conservato la fede, però era gente ignorante, indifferente, che non sentiva abbastanza i doveri della fede. E come ho già detto, il santo curato vedeva in questo un peccato, un grave peccato. Dice: siamo sicuri che questo solo peccato ne dannerà più di tutti gli altri messi insieme, perché una persona ignorante non conosce né il male che fa né il bene che perde peccando. Quindi mise in questa impresa tutta l'energia, tutta la passione che aveva dentro. Un tempo aveva voltato la terra col sudore della fronte, e quella fatica che aveva fatto, quella fatica manuale, non era che un passatempo paragonata a questo compito che l'attendeva di cambiare le anime, di istruirle nella fede. Ed ecco allora che la sua prima preoccupazione è stata l'istruzione religiosa della gioventù. Dovete sapere che i ragazzi di Ars venivano impiegati molto presto nei lavori dei campi. A 6 anni venivano mandati a curare il gregge, a pascolare il gregge. A 12 anni venivano già messi a fianco del papà nei lavori agricoli, quindi praticamente quasi nessuno sapeva leggere, e al catechismo andavano soltanto durante i mesi invernali, quando non c'era lavoro nella campagna, e del resto non se ne interessavano mica molto, perché non sapendo leggere poi non potevano approfondire le cose che imparavano. E la domenica andavano a messa solo quando capitava, quando non erano mandati nei campi ad aiutare il papà, o quando non c'erano altre faccende da fare in casa, in cascina. E questi ragazzi, così abbandonati a se stesso, ben presto, insomma, deviavano dal retto cammino. Le cattive compagnie e l'ignoranza religiosa li portavano al libertinaggio e diventavano dei materialisti, dediti soltanto alle cose della terra. E tante volte la prima comunione era solo nella loro vita un episodio isolato, un episodio qualunque. Direi che era un po' come oggi in certi casi. Allora ecco che il nuovo curato ci dà dentro, si sforza al massimo, e dato che loro devono lavorare in campagna dice: allora benissimo, dalla festa dei santi fino a quando molti di voi faranno la prima comunione, venite qui ogni mattina alle 6 che io vi faccio il catechismo. E la domenica, prima dei vespri, verso l'1, venite che completiamo il tutto. E dice che questa sua iniziativa ha avuto una notevole corrispondenza da parte delle famiglie di Ars. E alle 6, pur essendo molto presto, i ragazzi erano già presenti. Pensate che lui ha avuto anche un'idea abbastanza geniale per quei tempi, di dire: chi arriva primo gli regala un'immaginetta. E ora tanti ragazzi, per avere quell'immaginetta, arrivavano addirittura alle 4 del mattino. Per cui il curato d'Ars è rimasto abbastanza contento, e questo compito ha voluto farlo personalmente, fino a quando avrà un aiutante tanti anni dopo, 27 anni dopo il suo arrivo. Egli esercitò da solo tutte le funzioni del suo ministero pastorale, cominciando da quello di campanaro e poi tutto il resto. Verso questi ragazzi usava una certa severità, però era anche allo stesso tempo molto dolce, e iniziava subito con delle riflessioni molto forti che ordinariamente impressionavano i ragazzi fino alle lacrime, e poi, una volta presentata la lezione, la spiegava in un modo piano, semplice, breve, ma pieno di unzione, e voleva che stessero molto attenti. Usava dare dei buffetti sulle guance con lo stesso libro del catechismo che teneva tra le mani. E allora fra lui e i suoi allievi si è subito creata questa atmosfera di familiarità, di cordialità. E pensate, grazie a questa fatica eroica che lui portava avanti nell'istruire i giovani, i ragazzi, è successo che, quando è venuto il vescovo per le cresime, ha detto che questi suoi ragazzi sono i meglio istruiti della zona. Davvero sono convinto che il vostro curato si sta molto, molto impegnando, perché questi giovani sono meglio di tutti gli altri. Però bisogna dire anche che il curato d'Ars era molto severo nell'ammettere questi ragazzi a ricevere la prima comunione e la cresima, perché se non sapevano il catechismo a menadito, alla perfezione, lui li rimandava all'anno prossimo. E pensate che ci sono stati dei casi che hanno fatto la comunione 5, 6, 7 anni dopo la data prevista. Era fino a troppo severo, però era severo anzitutto con se stesso. Adesso parliamo invece della sua azione contro l'ignoranza religiosa degli adulti. E qui bisogna dire che il santo curato d'Ars ha sorpassato ogni limite di impegno. Tutte le sante sere il curato d'Ars si ritirava nella sacrestia della sua chiesa per preparare la predica della domenica. La predica della domenica non era preparata in un momento, era preparata lungo tutto il corso della settimana, e consultava molti libri, aveva molti libri in questa sacrestia, e poi andava spesso davanti al tabernacolo per farsi ispirare. Si immaginava che ci fossero lì queste persone semplici del popolo, e il modo come far entrare nella loro mente semplice di popolani queste idee, queste meravigliose verità di fede. E poi, una volta pregato e approfondito sui libri, il curato d'Ars scriveva di getto fino a 7-8 pagine per ogni veglia, per ogni serata, e stava su fino alla 1, alle 2 di notte a scrivere queste pagine. Però il compito più duro era quello poi alla fine di assimilare questa materia, di mandarla a memoria, perché allora si usava che non si adoperavano gli appunti, ma il predicatore doveva imparare tutto a memoria e recitare il tutto nella messa della domenica. E questa era la cosa più difficile per lui, che, come abbiamo già imparato, come abbiamo già capito, aveva la memoria ribelle. Per cui chi passava vicino alla chiesa la notte fra il sabato e la domenica sentiva il santo curato che si esercitava nella predica domenicale e poteva sentirla parola per parola. Però dobbiamo dire che l'indomani, quando saliva sul pulpito, spesso il curato si confondeva. Spesso dopo queste veglie, dopo questi sacrifici, dopo queste penitenze, fatiche, il santo curato non aveva più quella destrezza di mente, quella freschezza di mente che sarebbero state necessarie per fare una predica ben fatta. Però la grazia di Dio faceva tutto il resto. Anzi, le sue parole si scolpivano nel cuore dei suoi parrocchiani, e davvero la sua parola era molto, molto efficace. Si dice che le sue prediche non duravano poco, duravano circa un'ora intera, le prediche della domenica. e parlava di solito a voce molto alta, tanto che spesso gli hanno detto: ma come mai il signor curato grida tanto? Perché non vi risparmiate un pochino? E un'altra volta una signora gli dice: signor curato, quando pregate parlate tanto piano, quando invece predicate tanto forte. Lui risponde: è che quando predico parlo a gente sorda o addormentata, mentre quando prego parlo al Signore che non è sordo. E quali erano gli argomenti delle prediche del santo curato d'Ars? Beh, si direbbe che erano un po' tutti gli argomenti della morale cristiana, della fede cristiana, e a volte usava un metodo piuttosto severo di sgridare, di bastonare la gente, però non dimenticava di essere anche un pastore e un padre. Per esempio, quando dice: miei cari parrocchiani, cerchiamo di andare in paradiso, là vedremo Dio, come saremo contenti, andremo tutti in processione se la parrocchia diventerà buona e il vostro curato sarà alla vostra testa. Bisogna proprio che andiamo in paradiso. Che dolore se alcuni di voi fossero dall'altra parte. E diceva spesso che la gente di campagna è più facile a salvarsi, perché hanno sempre il contatto con la natura, hanno sempre il contatto con Dio, e quindi anche durante il lavoro possono pregare. E si congratulava coi giovani, con le giovani di Ars, che rinunciavano al disordine e si impegnavano risolutamente sulla retta via. Poi insisteva molto nel contegno, perché a quanto pare la gente era abituata ad andare in chiesa e comportarsi molto male, sbadigliavano rumorosamente, insomma avevano un contegno indecoroso, grossolano, poi bisbigliavano, mormoravano. Il curato d'Ars ha cercato di correggere il contegno dei suoi parrocchiani e di sgridare anche quei ragazzi che facevano girare continuamente gli occhi, soprattutto guardando dall'altra parte dove c'erano le ragazze. E sembra che nel suo modo di parlare fosse spesso anche piuttosto duro. La dolcezza la conoscerà solo in seguito, all'inizio soprattutto avrà un modo di fare duro, perché sapeva di avere a che fare con delle persone piuttosto dure, erano anime come rocce aride e per aprirle occorrevano colpi duri. Istruiva anche molto la gente sui riti eucaristici, ecco, voleva far amare la messa, voleva far amare l'eucaristia, e a quanto pare ha ottenuto degli ottimi risultati. Però sapeva benissimo che molte delle persone a cui erano rivolte le sue invettive non erano presenti in chiesa. C'erano quelli che invece di andare a messa andavano a trovare qualche vicino per berne insieme una bottiglia, e quelli che si incontravano un amico per strada con facilità lo invitavano a casa e rimandavano la messa un'altra volta. E quelli che passavano il tempo delle funzioni giocando all'osteria, lavorando, andando a spasso, ballando. Gente che viveva come se fossero sicuri di non avere un'anima da salvare. Allora il santo curato apostrofa questa gente, però sa che non è lì ad ascoltarlo. E dice: povera gente, come siete disgraziati, tirate pure avanti la vostra vita, state sicuri, voi non potete sperare che l'inferno. E poi li prendeva anche sul lato debole, sull'interesse: pensateci un momento e vedrete che finiscono quasi tutti miseramente, perdono la fede e poi vanno in malora, perciò sono doppiamente disgraziati. E approfittava di quando c'era qualche festa grande, che i parrocchiani erano quasi tutti presenti in chiesa, per le sue invettive più forti. E sembra che queste invettive colpissero nel segno. Ecco, vedremo tutto quello che il santo curato farà: la lotta contro il lavoro festivo, le osterie, la bestemmia, soprattutto contro il ballo.